Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sul Stolmore Rock. Vado direttamente al punto perché ho un'intervista che ci tengo a fare, anche perché è freschissima, anche perché sono usciti con il disco veramente di recente. Ha fatto due settimane, ha compiuto due settimane da poco. E quindi vado a introdurvi chi è con me, e sarà solo nella prima parte in questa occasione. Ma è qui con me Eugenio dei Bull Brigade, quindi ciao Eugenio, come va? Ciao ragazzi, bentrovati. Va bene, va abbastanza bene, dai, domenica sera, quindi direi che siamo in un buon giorno della settimana ancora. Esatto, l'ultimo disponibile per restare vagamente un po' tranquilli, anche se ovviamente il pensiero va già domani praticamente. L'ultimo disponibile per stare bene, sì. Esatto. Perché i Blue Brigade sono qui? Perché Eugenio è qui con me. Avevo un attimo anticipato, ovviamente, qualche secondo va, per come tutti sapranno, sono usciti con il loro quarto album, Perché non si sa mai, e ne andremo a parlare in questa prima mezz'oretta con Eugenio, appunto. Quindi 333-180-94-94, se qualcuno volesse mandare qualche messaggio o qualche domanda appunto per Eugenio tramite WhatsApp, lo può tranquillamente fare perché il club è qui davanti, oppure come tanti altri stanno facendo, si stanno collegando alla diretta, e anche lì si può tranquillamente scrivere dei messaggi per poter parlare con noi e avere qualche chiarimento magari sul disco. Come dicevamo un attimo nel fuori onda, c'è questo disco, come dicevi, sta andando alla grandissima. Sì, vai. Ma noi diciamo che siamo un po' sulla linea di quello che ci aspettavamo e che cercavamo, e stiamo dando via tantissime copie fisiche, e questa è una roba importante perché ovviamente i fan e i ragazzi che vanno sul nostro sito e se lo comprano senza intermediari ovviamente ci supportano in maniera diretta e ci aiutano comunque anche a continuare il nostro percorso e a fare altre ad avere delle risorse, no? per mettere in pratica magari quelle che sono le idee e le progettualità future. E da questo punto di vista siamo molto soddisfatti perché noi ci eravamo strutturati per gestire tutto in autonomia 5 anni fa, quando è uscito Il fuoco non si è spento, e quindi avevamo censito tutti i dati che aveva generato quell'uscita discografica. E diciamo che dal punto di vista nostro di Motor City Produzioni, a livello di pre-order li abbiamo triplicati, e sul digitale non ne parliamo. Ieri eravamo a 60.000 ascoltatori al mese, quindi comunque sta andando anche oltre a quelle che sono le nostre aspettative questo lavoro, e siamo felicissimi. No, bene, anche perché era aspettato da tutti questo disco, tutti ce lo aspettavamo, lo volevamo veramente sentire, quindi finalmente è uscito e ce lo andiamo a ascoltare anche un po' qui. Intanto mi è arrivato già una domanda che così mi aiuta anche dell'intervista, anche se ci sarà solo nella prima parte, come dicevo. Ci dice: ho due domande, dice: ciao, sono Andrea e avrei due domande appunto per Eugenio, te ne faccio una alla volta che così non ci andiamo a perdere. E chiede: avete mantenuto un cantato graffiante durante i pezzi lenti per poi renderlo dolce nelle canzoni più ritmate? Questi contrasti sono voluti per focalizzare l'ascoltatore sulla musica e sulle parole? Molto tecnica questa domanda, effettivamente. Vai pure. Sì, ma allora in realtà noi non abbiamo una linea, diciamo, non abbiamo uno schema, una linea guida rispetto a quello che è l'intenzione sui brani. Tutto fa un po' le atmosfere e gli argomenti trattati, e quindi l'intenzione viene un po' da quello. Non abbiamo fatto dei ragionamenti molto che partivano, diciamo, dagli aspetti della domanda che mi hai fatto. Poi abbiamo affidato la produzione artistica ad Andrea Tripodi, che comunque ci ha seguito in maniera minuziosa in tutti i dettagli, però non ho ricordi di un momento particolare all'interno di tutto questo, di quello che è stato il percorso che poi ci ha portato a sfornare questo disco, durante il quale sono stati fatti dei ragionamenti circa alla voce più o meno graffiata. Penso che è stata una roba che è venuta fuori un po' da a livello spontaneamente da quella che era l'intenzione che io avevo, oppure che era quell'intenzione che mi suggeriva gli argomenti di cui parlo dentro i vari brani. Sono sempre qui collegato con Eugenio e arrivano diverse domande da diverse parti, adesso cerco di gestire il meglio possibile. Come ti dicevo, c'è un'altra domanda dettagliatissima per quanto riguarda un attimo l'album, riguarda un po' sulla stampa del disco. Sempre Andrea che chiedeva nella seconda parte della domanda: come mai questa nuova scelta di stampare da self? Ma noi non abbiamo stampato da self, noi praticamente abbiamo fatto un piccolo contratto di distribuzione con il quale andiamo a ottimizzare quello che è il lavoro di Motor City Produzioni. Motor City Produzioni distribuisce il nostro disco a quelli che sono i nostri contatti di sempre, agli amici e collaboratori, diciamo, storici che ci siamo, diciamo, portati dietro per tutti questi anni. Quindi la piccola distro fino magari a quei 3 o 4 che nel tempo sono riusciti ad aprirsi un negozietto, no, di dischi. Mentre invece self è un altro tipo di lavoro che fa una distribuzione più grossa, arriva nei negozi di dischi più commerciali, arriva magari dentro, che ne so, a Feltrinelli, arriva, diciamo che è uno step in più, ma noi i dischi li abbiamo stampati noi in autonomia dal nostro stampatore di fiducia, e qualsiasi distributore che ci contatta comunque può avere le copie da noi direttamente senza passare tramite nessuno. Certo. Self è semplicemente un accordo che abbiamo fatto per riuscire ad arrivare in tutti i negozi, perché noi non eravamo nelle condizioni di farlo e perché c'è tanta richiesta. Ok, no, vabbè, giustamente per avere un po' più di visibilità, passami il termine, per avere possibilità, un aiuto esterno, piuttosto che farvi effettivamente sempre tutto da soli, perché effettivamente sicuramente non deve essere una roba molto facile. Ti leggo un altro messaggio che è arrivato e dice: ciao Eugenio, vorrei sapere qual è l'ispirazione di Senza Spine. Mi pare di capire che la prospettiva è quella di un padre che parla al figlio. Sì, è correttissimo, nel senso che quella canzone lì nasce da un ragionamento che facevo rispetto al fatto che il mondo in cui noi viviamo non è nostro, di nostra proprietà, ma è di proprietà delle generazioni future, quindi dei nostri figli, a cui noi poi lo andremo a dare, no? A un certo punto del percorso. Con particolare riferimento al fatto che il mondo che io andrò a restituire ai miei figli è messo molto peggio rispetto a quello che mi avevano dato in gestione i miei genitori, e quindi c'è questo, diciamo, questo conflitto interiore, no? Dove io scrivo questa sorta di lettera dove faccio un mea culpa, no? E dove mi interrogo su quello che poi sarà, no? Il futuro per i miei figli, perché ovviamente non sono stato in grado di dare un mondo migliore di quello che ho trovato, anzi non c'è nulla che può rasserenare, no? un ragazzo di 45 anni che fa il genitore nell'anno del Signore 2026, perché comunque la situazione un po' di tutto è abbastanza drammatica, e quindi mi è nata sta canzone dove in qualche modo spero che un giorno, quando se le cose dovessero, cioè spero, che auguro comunque una serenità, pace a tutti, però magari un giorno spero che se lo ricorderanno i miei figli, no, guarda, ti ricordi in quegli anni com'era preoccupato nostro padre? Per fortuna poi alla fine ce l'abbiamo fatta e le cose poi sono andate bene, no? E comunque ci siamo aggiustati nel mondo anche noi. Piano piano, speriamo sempre. E questo è un pensiero, vedendo i momenti che sono adesso, è veramente tragica, come dicevi effettivamente tu. E ho continuando con l'intervista, ho una domanda anch'io, un attimo tecnica, ovviamente avendo ascoltato l'album, e è sempre un attimo tecnica, per modo di dire. In 40 anni il fuoco non si è spento, c'era questa frase che mi ha colpito tantissimo, spezzata in due parti, diciamo. Punk si chiama la tua pena, punk vuol dire non è finita. In questo disco con Sopra i muri invece suono punk anche se non seguo più gli schemi. Quindi è un po' un distaccamento, no? Come dicevi tu, verso una versione un po' più rock? Ma no, semplicemente quella roba lì c'è perché quando tu appartieni a una determinata sottocultura o comunque provieni da quelle che sono, diciamo, gli stili di vita che ruotano attorno alla nostra musica, per forza di cose sei una persona che ha vissuto in maniera molto intensa e viscerale tutte le tipologie di accadimenti, ma soprattutto quando tu scegli di appartenere a una cosa, questo tuo rapporto personale con questa cosa è fatto di moltissime manie, di moltissimi dogmi, di moltissime cose in cui tu credi, sopra i quali tu giuri fedeltà, no? In eterno. E quella frase lì è un po' una sorta di dialogo tra l'Eugi che aveva 20 anni e l'Eugi che ne ha 45, che a un certo punto decide di aprire la porta di casa e di andare fuori e vedere se riesce a entrare nella musica senza perdere se stesso. E quindi ecco che alcuni schemi o alcune cose che magari a 20 anni, a 18, erano impensabili per me, no? Non l'avrei neanche preso in considerazione, ecco che invece stanno venendo fuori, no? Perché comunque alla fine i Bull Brigade per me stanno diventando più di un secondo lavoro, e stanno diventando una roba che sta migliorando in maniera importante la qualità della mia vita e di quella della mia famiglia, mia come degli altri quattro diciamo amici, fratelli che condividono questo viaggio con me. E quindi, sai, in qualche modo comunque il peso dentro c'è sempre, perché io a 20 anni comunque non mi sarei mai pensato, no, che con sta roba lì che stavo mettendo in piedi avrei fatto sto percorso. E quindi quelle frasi lì derivano da un conflitto che ho io con quel pezzo di me che invece è ancora molto dentro a giura, fondo una banda e giura con il sangue che non tradirai, no? Per dirti, perché poi di quello parla, del percorso. Ok. Buono a sapersi. Intanto risponde Giorgio, dice: grazie della risposta, anch'io sono padre, l'ho sentita molto vicina. Ci vediamo il 14 a Bologna, il 14 marzo. E colgo l'occasione appunto per dire che ci sono queste un paio di 5 date intanto in Italia, senza contare tutte quelle altre che sono state fuori per l'estero. Il 6 di marzo a Torino, se non sbaglio, è sold out. Sì. E poi dopo ci saranno le altre disponibilità, il 14 di marzo a Bologna all'Estragon, il 20 di marzo a Treviso, il 18 di aprile a Roma e il 24 a Milano. Questo è un piccolo inizio, che così mi collego anche alla domanda di Salas Studio, che dice: vi siete posti un qualche obiettivo per questo disco tour? Ma l'obiettivo ovviamente è quello di provare ad alzare l'asticella. Diciamo che noi storicamente abbiamo sempre avuto bisogno di obiettivi, nel senso che non abbiamo mai fatto una cosa senza cercare di migliorarci, è sempre stato così. E quindi sì, ovviamente c'erano tanti obiettivi, c'era l'obiettivo di arrivare a riuscire a fare magari dei featuring con degli artisti importanti che facevano parte già delle due categorie sopra di noi, quindi uno pensava e diceva, prima di arrivare a chiedere magari a lui o a lui, devo riuscire a portare i Bull a un livello, diciamo, tale da giustificare una richiesta, che non, che una roba che non stroppia, no? E quindi quello, cioè l'obiettivo di andare dentro e fare un disco con un produttore vero, e ovviamente richiedeva tanti a livello, un grosso sforzo economico, però noi nel tempo siamo riusciti ad accantonare la somma, con i proventi dei live abbiamo fatto veramente un lavoro da economy, perché siamo riusciti a metterci da parte tutti i soldi che ci servivano per entrare dentro con Andrea Tripodi a Londra e fare sto lavoro, e quello è un altro obiettivo che abbiamo centrato. Ovviamente adesso abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, ci siamo legati a Barley Art, che è un'altra realtà che si occupa appunto di gestire i nostri spettacoli. Speriamo che magari ci entri qualcosa, un po' di qualche concerto, un po' qualcosa di profilo che ci permetta di avere delle belle vetrine dopo che finisca questo tour. E per il resto vogliamo anche un po' vedere fino a che punto abbiamo le potenzialità per allargare il nostro bacino d'utenza. Ok, buono sapere, e grazie a tutte queste risposte, perché effettivamente sono state veramente, qualcuno veramente dettagliata su chi ha effettivamente ascoltato l'album. Io direi che ci vediamo effettivamente il 14 di marzo qui a Bologna. E come dicevo, avevamo a disposizione questa prima parte, se poi tu mi dici guarda sono disponibile anche nella seconda, proseguiamo, se no ti lascio andare. Io in realtà sono arrivati Bulbrig, è arrivato Marx, se magari lo riuscio, se volete ve lo faccio salutare, però siamo veramente, devo tornare a lavorare, perché la domenica ormai è diventato il giorno delle spedizioni e dei preparativi. Vai tranquillo, io ti ringrazio lo stesso, grazie a questa disponibilità di questa mezz'oretta, e ci vediamo alla prossima, e grazie ancora. Ciao Eugenio. Grazie a voi, un saluto a tutti, grazie a chi è stato a guardare, che si è fermato a farmi le domande. Ciao. Ciao.